le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La nuova ondata di arresti nell'inchiesta su Mafia Capitale, intercettazione di Buzzi che dice: con questi in Campidoglio in 3 anni ci mangiamo Roma. I manette anche alcuni consiglieri comunali, traballa la maggioranza in Campidoglio, Marino, niente dimissioni, andiamo avanti. All'Italia pronta ad assumere 310 dipendenti, allacciate le cinture, il paese riparte, dice Renzi nella giornata di convention dell'ex compagnia di bandiera. Dopo la sentenza sulle pensioni, la Consulta esamina il blocco degli stipendi pubblici, l'Avvocatura dello Stato, costi non inferiori ai 35 miliardi. Nella FIFA tangenti dal 92, riferisce la gola profonda dell'inchiesta sul calcio, corruzione anche per Francia 98. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il numero di sms 349-238-6666 e poi potete anche commentare sul nostro sito www.radio24.it nella sezione dedicata alla trasmissione. In apertura parliamo della nuova serie di arresti per l'inchiesta su Mafia Capitale. C'è il business legato ai flussi migratori e alla gestione dei campi di accoglienza per migranti sullo sfondo dell'indagine che ha portato a numerosi arresti questa mattina. I provvedimenti riguardano lo sviluppo dell'inchiesta su Mafia Capitale, il gruppo mafioso riconducibile a Massimo Carminati, ora in carcere. Il blitz dei carabinieri è scattato all'alba nelle province di Roma, Rieti, Frosinone, L'Aquila, Catania ed Enna. 44 gli arrestati, 21 gli indagati a piede libero. In manette anche il consigliere regionale del Lazio, Luca Gramazio, l'ex presidente del Consiglio Comunale di Roma, Mirko Coratti, l'ex assessore alla Casa del Campidoglio, Daniele Ozzimo, i consiglieri comunali Giordano Tredicine e Massimo Caprari e l'ex presidente del 10° municipio, quello di Ostia, Andrea Tassone. Gli investigatori hanno confermato l'esistenza di una struttura mafiosa operante nella capitale che faceva da cerniera tra ambiti criminali ed esponenti degli ambienti politici, amministrativi ed imprenditoriali. Centrale il ruolo di Salvatore Buzzi, già coinvolto nella prima fase dell'inchiesta, ritenuto riferimento di una rete di cooperative sociali che nel tempo si sono assicurate numerosi appalti e finanziamenti della Regione Lazio, del Comune di Roma e delle aziende municipalizzate. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevamo, la vicenda sta avendo anche effetti politici. Di tutto questo parleremo ampiamente nella seconda parte della trasmissione. Dopo il traffico ospiteremo il sottosegretario agli interni Domenico Manzione, quello che ha la delega sull'immigrazione, per capire come si può fare a bloccare i casi di corruzione nel cosiddetto business dell'accoglienza. Parleremo con Guido De Vito, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, e faremo il punto anche sulle reazioni politiche. Passiamo ad altro intanto, alla convenzionalità alla quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio Renzi, il punto in diretta con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Hangar 7 dell'area tecnica di Fiumicino, presentazione allora alla stampa nazionale ed internazionale del nuovo marchio, dei nuovi interni, la nuova livrea degli aerei Alitalia presenti, i vertici della compagnia e del maggiore azionista Etihad. Ma prima una notizia che dà il segno di un'azienda che riparte, lo hai anticipato Simone da studio, accordo fra Alitalia e sindacati per l'assunzione di 310 dipendenti nei settori manutenzione ground, si tratta in parte di stabilizzazioni da tempo determinato ad indeterminato e in parte interessano ex dipendenti in mobilità, in cambio previsti strumenti di maggiore flessibilità per l'ottenimento di una maggiore efficienza del servizio. Ha partecipato questa mattina al primo evento della giornata anche il presidente del Consiglio Renzi. Ascoltiamo allora le sue parole. Vorrei chiedervi di allacciarvi le cinture, perché qui stiamo decollando davvero. Piaccia o non piaccia, ci sono le polemiche fuori tutti i giorni, ci dicono dovete fermarvi, rallentare. Noi stiamo rimettendo il paese a correre come deve correre, perché l'Italia ha bisogno di non fermarsi e di recuperare gli anni che ha perso. E queste dunque le parole del Premier Renzi. L'Alitalia, un'azienda che ha vissuto momenti difficili ma che ora ha tutte le condizioni per guardare al futuro con ottimismo. Le parole invece del presidente Montezemolo, avanti senza guardare indietro, dice l'amministratore delegato di Etihad, James Hogan. E da Fiumicino è tutto, al momento linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. A questo punto siamo agli aggiornamenti sulla Grecia, perché le trattative, come sapete, proseguono. In questo momento tutti gli indici europei sono negativi, -1,29% il FTSE MIB, -1,24% il FTSE OSHER, mentre va male anche Francoforte, Parigi, e va male oggi anche la borsa di Atene. E però appunto vediamo come stanno andando le cose dal lato delle trattative con Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Vittorio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Vi parlo dal padiglione greco dell'Expo, sotto il segno di un austerity, non c'è nemmeno un ristorante, sarebbe veramente una cosa incredibile non avere un ristorante greco all'Expo, ma così è per i costi e per i tagli. Comunque la riunione è andata in questo modo: i creditori della Grecia hanno fatto una proposta ieri sera, un take or leave it, o prendere o lasciare, come dicono in gergo, che prevede però un surplus abbastanza ridotto, quindi questo un avvicinamento alle posizioni appunto greche, che dovrebbe facilitare qualche politica sociale. In cambio però ci dovrebbe essere una riduzione delle pensioni, si parla di un taglio al costo delle pensioni del PIL dello 0,25-0,5%, non si rinuncerebbe a ridurre ulteriormente i tagli al settore pubblico, ma Atene non dovrebbe tornare indietro sulle politiche di liberalizzazione del mercato del lavoro. In cambio dovrebbe esserci anche un ulteriore aumento dell'IVA, perché oggi ci sono delle speciali esenzioni per le isole che andrebbe eliminato, e i creditori propongono due sole aliquote dell'11 e del 23% dalla miriade di tasse che oggi abbiamo. Quindi Tsipras ha oggi tutto in mano, deve semplicemente cercare di vendere questo pacchetto anche alla sinistra radicale di Syriza, che invece propone dei problemi perché ha 30 voti in Parlamento. Questa è la situazione, tutto quanto dovrebbe essere ripreso venerdì prossimo. Cioè, dalla Grecia è tutto, a te Simone. Dal padiglione greco, grazie a Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Siamo alle cronache anche oggi sulle vicende della FIFA. Oggi è arrivata la desecretazione dei verbali di interrogatorio della cosiddetta gola profonda, che ha consentito questa ondata di arresti. E Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno Simone. Ci sono delle novità interessanti. Sì, perché comunque Blazer, l'ex vicepresidente FIFA, che appunto, come giustamente sottolineavi, la gola profonda dell'inchiesta, ha ammesso che tangenti sarebbero state pagate sin dal 1992 per l'assegnazione poi alla Francia dei mondiali del 98. Ecco, è un gioco al ritroso che comincia anche un po' a preoccuparci come italiani, perché siamo negli anni che seguono di poco i mondiali di Italia 90. Chissà se queste rivelazioni arriveranno fino a quella data per noi fatidica, speriamo di no. Ha parlato anche uno degli arrestati nell'inchiesta, Warner, altro ex vicepresidente, anzi vicepresidente attuale della FIFA, della sua Trinidad e Tobago. Parole difficili da interpretare, ma ha detto che tutto sommato è disposto a collaborare, a svelare i suoi segreti. Ha detto anche di temere per la sua vita, e in questo momento non mi sentirei di giudicare troppo enfatica la dichiarazione, insomma. Senti Dario, e dal lato, perdonami, invece dei giochi per la futura presidenza della FIFA? Ma devo dire che i nomi che si fanno sono tanti in questo momento, no? Non a caso anche la tempistica definita dallo stesso Blatter per l'uscita di scena lascia ai vari schieramenti il tempo per definire le proprie posizioni. Non credo tanto negli ex campioni che in questi giorni si sono fatti anche avanti, piuttosto ci sono delle figure tecniche, chiamiamole così, strategicamente molto importanti, come ad esempio il principe del Kuwait Al Sabah o alcuni uomini chiave del calcio asiatico sudcoreano, che potrebbero mettere in campo delle candidature molto pesanti. Il grande favorito, e in queste fasi lo sai bene, lo sappiamo bene per esperienza, è sicuramente un limite, perché si rischia di essere bruciati ben prima della volata finale, è Michel Platini, il presidente dell'UEFA, che però, è bene sottolinearlo, non ha neppure tutta l'UEFA dalla sua parte, perché comunque le strategie e la politica sportiva di Platini sono ben particolari e creano anche divisioni oltre che consenso. Per cui corsa ancora apertissima, Platini però in questo momento è in pole position, vedremo se sarà un vantaggio oppure uno svantaggio. Grazie al nostro Dario Ricci per questi aggiornamenti. Ora veniamo ad una notizia che vi davamo nei titoli. È arrivata la memoria, o meglio, l'ANSA è entrata in possesso della memoria dell'Avvocatura di Stato, che sta difendendo appunto lo Stato davanti alla Corte Costituzionale, davanti alla Consulta, in merito ad un'altra vicenda che potrebbe costare parecchio, ed è la questione del blocco degli stipendi del settore pubblico, che è andato avanti per 5 anni, una cosa parallela, se volete, alla vicenda della sentenza sulla rivalutazione delle pensioni. Abbiamo in linea con noi Davide Colombo del Sole 24 Ore. Davide, buongiorno. Buongiorno a voi. 35 miliardi, questa è la stima dell'Avvocatura dello Stato, 35 miliardi che sarebbero quelli in una botta sola, per così dire, solamente per recuperare i 5 anni precedenti, e poi sarebbero, se non erro, una dozzina di miliardi a regime, Davide, è così, no? Sì, no, devo correggerti, perché il ricorso di cui stiamo parlando è un ricorso del 2013 che ha fatto il sindacato CISAL e riguarda gli anni 11, 12 e 13. Ecco, il blocco è sui contratti non rinnovati in quel triennio, si è chiesto a un giudice di valutare l'ipotesi di proporre alla Corte Costituzionale la incostituzionalità dell'articolo 9 del decreto 78 del 2010, e appunto in questa memoria che l'ANSA ha diffuso c'è questa stima, che è una stima della Ragioneria Generale dello Stato, che cifra in 35 miliardi. Ci sono 13 miliardi di stima per il rinnovo del contratto per il prossimo triennio, che comprende anche questa stima gli oneri della vacanza contrattuale perduta. Diciamo che è una stima, quella seconda che sto citando, contenuta anche nel DEF. Quindi questo è uno scenario che dà conto della dimensione di impatto di un'eventuale sentenza di accoglimento. Diciamo che l'eventualità è molto remota, però. E perché è molto remota, Davide? È molto remota perché c'è un precedente pronunciamento dei giudici della Corte che hanno respinto l'ipotesi di incostituzionalità di un blocco biennale 11-12 che era stato presentato, motivandolo appunto con il fatto che si è trattato di un periodo limitato. Ora, questa volta stiamo parlando di 3 anni, quindi non sappiamo. L'incognita vera, secondo me, invece si presenta il 24 giugno prossimo, cioè il giorno dopo l'appuntamento con la Consulta, perché il 24 giugno c'è un'udienza in primo grado davanti a un giudice del lavoro di Roma in cui la CGIL Funzione Pubblica, difesa dal professor Vittorio Angiolini, presenta un suo ricorso che vale solo per il personale della scuola, e in questo caso il periodo di riferimento del blocco è di 5 anni, dall'11 al 15. Sì. Ecco, secondo me questo secondo ricorso giudiziario potrebbe creare più problemi al governo, perché qui sono 5 gli anni in questione e appunto diciamo che se questo giudice dovesse accogliere l'ipotesi e presentare alla Consulta quesito di manifesta fondatezza di incostituzionalità, allora diciamo che la cosa potrebbe diventare complicata. Certo è che le cifre in ballo sono quelle. Grazie a Davide Colombo del Sole 24 Ore per i chiarimenti e anche per la giusta correzione. Anche Angela Merkel sbarca su Instagram, il social network delle immagini. Sentiamo. Momenti della vita pubblica, foto rigorosamente professionali. Dopo Facebook e Twitter, la cancelliera Angela Merkel apre un account su Instagram. Migliaia di follower in poche ore, per l'ultima dei leader in ordine di tempo ad arrivare sul social network fatto di immagini. Nessuno scatto privato o confidenziale, come sul profilo di Silvio Berlusconi, che proprio oggi, tra un Dudù e una Pascale, si concede la soddisfazione di postare una sua immagine balneare in slippino. Immagine tratta dal settimanale Oggi di decennio fa. Batterà i record delle immagini pubblicate da Barack Obama? Il presidente americano da parte sua è da poco su Twitter. Appena aperto l'account come POTUS, President of the United States, Bill Clinton gli ha chiesto se l'account passerà poi al prossimo presidente, sperando di averlo ovviamente in famiglia. Politica pop che passa dai social senza dimenticare la cara vecchia TV. E se Obama ha salutato Letterman con una puntata da record, Matteo Renzi è tentato da amici. Domani la finale, lui potrebbe tornare da Maria De Filippi, ma forse fa troppo caldo per il giubbotto di pelle. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra poco torniamo sulle vicende di Mafia Capitale, sulla notizia di oggi, su questa nuova ondata di arresti, su questo business dei migranti sui quali mette le mani anche la criminalità e circola corruzione. Non è la prima volta che lo vediamo, ma lo facciamo dopo il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. C'è una nuova ondata di arresti nell'inchiesta su Mafia Capitale, intercettazione di Buzzi che dice: con questi in Campidoglio in 3 anni ci mangiamo Roma. E in manette sono finiti anche alcuni consiglieri comunali e traballa la maggioranza in Campidoglio, anche se Marino dice: niente dimissioni, andiamo avanti. Dopo la sentenza sulle pensioni, la Consulta esamina il blocco degli stipendi pubblici, l'Avvocatura dello Stato, costi non inferiori ai 35 miliardi. Nella FIFA tangenti dal 92, riferisce la gola profonda dell'inchiesta sul calcio, corruzione anche per Francia, 1998. E siamo proprio alla nuova inchiesta su Mafia Capitale, la seconda parte di questa inchiesta, ve l'abbiamo raccontato, 44 arresti, ci sono anche dei politici, la vicenda sta generando dei problemi politici e tra un attimo ci torneremo. E però, ancora una volta, l'attenzione si concentra sul cosiddetto business dell'accoglienza, ossia persone, organizzazioni che riescono a lucrare appunto sull'accoglienza degli immigrati in Italia. Di questo vogliamo parlare con Domenico Manzione, sottosegretario all'interno, che è una delega specifica proprio sui temi dell'immigrazione. Bentornato ai nostri microfoni, Manzione. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Come se ne esce? Perché questa non è la prima volta che avviene, non è il primo caso, non solo il caso di Mafia Capitale. In questa sede ci siamo occupati anche di una vicenda che ha lambito la Caritas e visto indagato addirittura un prete per vicende di questo genere, anche se sembra, le ipotesi che circolano, è che sia estraneo, lui sì, ma non le cooperative che poi si collegavano alla Caritas. Come se ne esce, Manzione? Ma dunque, guardi, quelli di oggi sembrano degli arresti quasi annunciati, perché la prima ondata dell'inchiesta su Mafia Capitale lasciava chiaramente intendere che ci sarebbero stati degli ulteriori sviluppi. Da questo punto di vista siamo, come dire, perfettamente al fianco della magistratura, perché è bene che tutto il malaffare, diciamo così, che c'è anche in questo settore, perché lei sa meglio di me che il livello di corruzione nel nostro paese è particolarmente elevato, quindi era forse anche ingenuo aspettarsi che negli appalti che riguardano l'accoglienza non ci fosse qualcosa che non andava. Però ecco, non farei l'errore, intanto sottolineerei come si tratta di episodi collegati a un periodo in cui la politica non aveva fatto ancora scelte così nette come quello di ora. Il piano nazionale, nonostante tutte le difficoltà che, come lei può vedere, tutti i giorni abbiamo nel portarlo avanti, e la pubblicizzazione di tutte le gare consente probabilmente di tenere più alta la guardia, quindi consente di limitare i danni al minimo indispensabile. E da un altro punto di vista le devo dire che se il fatto che la corruzione si sia spinta fino a lucrare in un settore così delicato come quello dell'accoglienza lascia sicuramente l'amaro in bocca, però non farei confusione, non metterei tutti sullo stesso piano, perché c'è tantissima gente che è evidente, c'è anche molta gente che lavora seriamente. Questo lo sappiamo benissimo, Manzione, però capisce che stupisce un po' tutti i cittadini il fatto che in un settore, in un ambito così delicato e anche teoricamente così controllato anche dalle strutture dello Stato, avvengano fatti di questo genere. Sì, non c'è dubbio, infatti sono fatti, le ripeto, di una gravità inaudita, anche perché vanno a lucrare sulla pelle poi di poveri migranti, quindi è sicuramente un bubbone da incidere, da estirpare nella maniera più assoluta. Tuttavia, da questo punto di vista, come le dicevo prima, il fatto di essersi organizzati, come ci siamo organizzati, il fatto di avere irrobustito il più possibile i controlli dovrebbe consentirci oggi di essere molto più al riparo da fenomeni di questo genere. E avete intenzione di robustirli ulteriormente o l'assetto attuale? Sì, assolutamente sì, nel rispetto ovviamente delle prerogative della magistratura, perché fino a che l'inchiesta non è finita non siamo in grado nemmeno di conoscere bene gli atti e quindi di valutare con tutta la puntigliosità del caso tutto il fenomeno nella sua interezza. È ipotizzabile che si vari un progetto di ispezione più approfondita su ciascun appalto in questo settore, Manzione? Guardi, è ipotizzabile assolutamente, sì, certo, è ipotizzabile che si effettuino controlli sempre più penetranti sugli appalti in questa direzione, non c'è dubbio. Grazie a Domenico Manzione, grazie, sottosegretario all'interno con delega proprio ai temi dell'immigrazione. Adesso torneremo sulle vicende di Roma Capitale, di Mafia Capitale, pardon. Non mi è venuto a caso di dire Roma Capitale, perché adesso parleremo della parte politica di tutto questo e dei problemi che tutti questi arresti di oggi stanno creando in Campidoglio. Ma prima che fugga via, ci colleghiamo con la nostra Laura Bettini per parlare di una bella iniziativa arrivata al suo terzo anno e che ha ottenuto un risultato. L'idea qual è? Quella di realizzare un percorso ciclabile che vada da Venezia a Torino. Ieri è arrivato il via libera del ministro Delrio. L'iniziativa consiste in una pedalata alla quale appunto la nostra Laura Bettini sta partecipando e che tra poco deve ricominciare a pedalare, quindi ci colleghiamo con lei adesso. Laura, eccoci. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, ci troviamo a Piacenza, tra poco ricominceremo a pedalare verso Oriolitta, dove c'è un altro degli appuntamenti appunto per rendere partecipe le amministrazioni locali di questo progetto che nasce all'interno del Politecnico di Milano, ma che appunto, come ricordavi, ha raggiunto il Ministero delle Infrastrutture e l'ok, direi molto convinto, del Ministro Delrio ieri, ma era già stato patrocinato e apprezzato dal Ministero del Turismo, dal Ministero dell'Ambiente. Insomma, è un progetto che piace e che sta riscuotendo successo. Io ho voluto quest'anno partecipare, farò solo da Mantova a Pavia, di più non potevo permettermi, però per vedere che cosa fanno e come vengono ricevuti, direi con molto entusiasmo dalle popolazioni e dagli amministratori che credono nel cicloturismo come possibilità di rilancio. I numeri all'estero sono altissimi, in Germania, in Austria, in Olanda, sappiamo va fortissimo. La Valle del Po è un posto perfetto per fare il cicloturismo in Italia, poi ce ne saranno anche altre di possibilità, ne parliamo tra pochissimo, sentiamo le parole di Delrio, ma insomma ecco, in questo momento di crisi e di depressione questa è una speranza verde, sostenibile e neanche particolarmente difficile da realizzare con interventi economicamente sostenibili, perché si parla di un investimento pari a 3 km di autostrada, insomma, quindi di autostrada ne facciamo tante, facciamo la ciclopedonale, la cicloturistica della Valle del Po. Della Valle e del questo Po. È quello sì. Che ha detto il ministro Delrio, sentiamo Simone. Sì. No, noi siamo intenzionati a un piano organico che abbiamo già cominciato a mettere insieme con il Ministero dell'Ambiente, con il Ministero dei Beni Culturali. Basti citare l'altro esempio importantissimo di una grande infrastruttura cicloturistica che è il progetto del grande raccordo anulare ciclabile di Roma, che sono 44 km, bellissimi, un modo diverso di godersi Roma, non imprigionati nel traffico. E grazie a Laura Bettini per questo interludio e, come si diceva, restiamo a Roma e andiamo agli aggiornamenti politici dopo gli arresti di questa mattina. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, appunto Simone, la nuova ondata di Mafia Capitale porta una conseguente coda di polemiche politiche. Il leader della Lega Matteo Salvini chiede al sindaco di Roma Ignazio Marino di dimettersi e si chiede anche cos'altro deve accadere affinché a Roma si torni a votare. Ma Marino non ha nessuna intenzione di farlo, sentiamo che cosa ha detto. Oggi sia in Campidoglio sia in alcune aree strategicamente molto toccate come Ostia abbiamo persone per bene che vogliono ridare la qualità di vita e tutti i diritti e la dignità che la capitale d'Italia merita. Dal PD risponde anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, dalla Procura un lavoro importante. Noi nel frattempo andiamo avanti per rafforzare legalità e trasparenza, ma la Lega non è l'unica a protestare. Nel Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista chiama in causa il presidente del PD Matteo Orfini, indicato dal premier Matteo Renzi come commissario democratico proprio sullo scandalo di Roma Capitale. Chi ha fatto da palo e non da commissario dovrebbe dimettersi all'istante, scrive Di Battista. Gli arresti sono nel PD, scrive poi Grillo, mentre il Movimento 5 Stelle ne esce sempre pulito. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e abbiamo in collegamento proprio un esponente del Movimento 5 Stelle, che è Guido De Vito, che è il capogruppo in Campidoglio del Movimento 5 Stelle, ossia in Consiglio Comunale a Roma. De Vito, buongiorno e benvenuto. Marcello De Vito. Marcello De Vito, abbia pazienza, ogni tanto ci sfugge qualcosa qua. Può succedere. Senta De Vito, immagino che la richiesta sia per le dimissioni di Marino. Assolutamente sì, ma non è una richiesta che facciamo da oggi, è una richiesta coerente a quello che abbiamo già fatto dal 2 dicembre in poi, dopo l'inizio dell'indagine Mafia Capitale. Questi arresti non ci sorprendono affatto, e soprattutto vediamo che c'è un PD romano che si sia detto, sia stato detto in questi mesi dal commissario Orfini e dal sindaco Marino, che è fortemente coinvolto. Sono stati arrestati l'ex presidente dell'Aula Coratti, un assessore, e agli arresti domiciliari il presidente del decimo, l'ex presidente del decimo municipio, che si definiva il miglior presidente mai visto, e via discorrendo. Quindi il PD romano che se ne dica fortemente coinvolto, motivo per cui abbiamo insistito con la richiesta di dimissioni del sindaco Marino, perché non ci sono più le condizioni per andare avanti. Stamattina per poco mancava il numero legale. Quindi di fatto c'è un PD che non è neppure in grado di garantire il numero legale per il proseguimento dei lavori. Ci chiediamo con quale coraggio il sindaco Marino oggi affermi che oggi in consiglio ci siano soltanto persone per bene. Ricordiamo che, adesso sì, per fare un nome, che Coratti è ora consigliere comunale, e lo è stato in questi mesi dopo l'inizio dell'indagine Mafia Capitale. Senta, non De Vito, c'è comunque una responsabilità diretta del sindaco, e concludo, c'è senza ombra di dubbio una sua forte responsabilità politica. Senta De Vito, l'altro giorno abbiamo ospitato un altro consigliere comunale di opposizione, Alfio Marchini, che diceva, e parlavamo di altri argomenti in realtà, non di questi, ossia della pioggia che ha invaso la città l'altro giorno con gli allagamenti, i tombini e tutto quanto, e ci diceva: Roma va commissariata. Voi come la vedete? Allora, intanto consigliere Marchini lo vedo poco in consiglio comunale, perché praticamente non è mai presente. Quello che abbiamo detto dal 2 dicembre in poi è questo: o il sindaco Marino si dimette per evitare a Roma quella che sarebbe la peggiore veramente delle figuracce a livello internazionale, o comunque il comune deve essere commissariato. Siamo, come l'hai ben sa, dal 2 dicembre insomma abbiamo portato questa istanza al prefetto. E risposta non è mai arrivata, o sì? Come? Risposta non è mai arrivata dal prefetto? No, sì. Ad oggi non è arrivata. Per questo motivo chiediamo al sindaco Marino di evitare a se stesso questa figuraccia e dimettersi. Grazie Guido De Vito, capogruppo, Marcello De Vito, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio. Le auguro una buona giornata, noi ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo, parleremo col sindaco di Bologna, Virginio Merola, perché si sta cercando di bloccare una sorta di marcia provita, di veglia provita di preghiera davanti ad un ospedale. Le associazioni provita contro la borsa volevano fare questa veglia davanti ad un ospedale. Ebbene, il prefetto gli ha detto: non lo potete fare. Loro controaccusano, dicono dal comune, dalla prefettura, sono degli stalinisti. Ne parleremo tra poco più avanti, e poi una risposta ad un ascoltatore ancora su Roma e sulla vicenda dell'aggressione a un cittadino rumeno avvenuta l'altro ieri. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. La La nuova ondata di arresti nell'inchiesta su Mafia Capitale, intercettazione di Buzzi con questi in Campidoglio, in 3 anni ci mangiamo Roma in manette, anche alcuni consiglieri comunali, traballa la maggioranza in Campidoglio, il Movimento 5 Stelle, lo avete sentito poco fa, chiede il commissariamento. Dopo la sentenza sulle pensioni, la Consulta esamina il blocco degli stipendi pubblici. L'Avvocatura dello Stato dice costi inferiori ai 35 miliardi. Nella FIFA, tangenti dal 1992, riferisce la gola profonda dell'inchiesta sul calcio, corruzione anche per Francia 98. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E adesso parliamo di una vicenda che arriva da Bologna. Che cosa succede? Che per sabato 13 giugno alcune associazioni cosiddette pro-life, sono quelli per esempio che si oppongono all'aborto, hanno deciso di organizzare una sorta di veglia davanti all'ospedale. Appunto, una veglia contro l'aborto. La cosa sta suscitando dibattito perché da una parte c'è chi intende far sì che tutto questo non avvenga e dall'altra parte loro che dicono è una censura. Saluto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, che è in linea con noi. Buongiorno. Come la vede? Ma io la vedo molto semplice, nel senso che c'è stato un incontro al Comitato dell'Ordine Pubblico. Il prefetto ha proposto un provvedimento che, come sindaco, condivido, che riguarda gli ospedali, le case di riposo, campi sosta nomade. Il provvedimento si limita a dire che non è opportuno organizzare manifestazioni davanti a questi luoghi, manifestazioni politiche. Francamente lo trovo saggio, non si nega a nessuno la libertà di opinione, si può manifestare da molte altre parti, in città, ma tutelare gli ospedali e le case di riposo da manifestazioni politiche che poi hanno anche sempre contrapposizioni, credo che sia un provvedimento saggio che non riguarda la libertà di opinione. Loro dicono che siete stalinisti. Il prefetto a quale ideologia risponda, credo che risponda a quella del buon senso. Noi non possiamo continuare a assistere in luoghi dove ci sono malati e familiari che hanno ben altri problemi a eventi di questo tipo che bloccano le situazioni, scatenano reazioni opposte. Ognuno potrà esprimere liberamente la propria opinione, ma per favore lasciate in pace le case di riposo e gli ospedali. Tutto qui, non mi pare che sia un provvedimento di censura. Ecco, Bologna è una città grande. Queste organizzazioni pro-life pare che stiano pensando ad un'alternativa a questo punto, visto che il prefetto gli ha vietato la possibilità di fare una veglia di preghiera, da quel che ho capito. Si tratta di una veglia di preghiera di 9 ore là. E dicono: vogliamo una piazza importante di Bologna. Da quel punto di vista ci sarebbero problemi, secondo lei, anche in termini forse di ordine pubblico, perché non è una cosa che non riscalda gli animi questa? Sicuramente, però abbiamo una prefettura e una questura saggia, quindi decideranno loro quali sono le piazze più adatte. Io, come sindaco di Bologna, evidentemente ho la mia opinione su queste manifestazioni, che non le condivido, ma non è il mio compito entrare nel merito di questo. Dico solo che quando il prefetto ci ha presentato questa opportunità mi sono espresso favorevolmente, perché faccio presente che c'è anche l'abitudine di andare davanti ai campi sosta nomadi e lì si inscenano continue sceneggiate di ammantate di politico. Allora, siccome a Bologna ci sono 380.000 residenti, di cui 224 senti, tutta questa continua pressione non fa bene a nessuno. Se uno ce l'ha con i sinti e pensa che sia il nemico del mondo, lo va a dire da qualche altra parte, lascia tranquille queste persone. Grazie Virginio Merola, sindaco di Bologna. Buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata. Buona giornata. E prima di andare al nostro ultimo argomento, una risposta ad un ascoltatore che mi ha scritto via SMS all'inizio della trasmissione, Daniele da Firenze, che dice che ieri ci siamo tuffati sulla notizia del cittadino romeno al quale a Roma sono state mozzate le dita, e la questione è se questo sia stato fatto da parte di estremisti di destra oppure no. Per chiarire, quando abbiamo riportato il fatto che era avvenuto da parte di estremisti di destra, era una notizia che filtrava dagli investigatori ed è stata riportata anche da organi di stampa. Abbiamo sempre utilizzato il condizionale, ancora non lo sappiamo e aspettiamo maggiori dettagli sulle indagini, non stiamo ignorando la vicenda. Parliamo dell'incidente nel quale sono stati coinvolti negli Stati Uniti dei nostri connazionali. Erano originari delle province di Brescia e Vicenza i due turisti italiani morti nello scontro avvenuto in Pennsylvania sulla Interstate 380 tra il pullman che li stava trasportando da New York alle cascate del Niagara e un tir che proveniva in direzione opposta. Si tratta di un 70enne originario di Brescia. La prefettura della città lombarda sta tentando di mettersi in contatto con i figli dell'uomo che era negli Stati Uniti con la compagna, anche lei bresciana, rimasta gravemente ferita nello schianto. L'altra vittima è invece un farmacista di Vicenza, Marco Fornasetti, di 29 anni. In viaggio di nozze con la moglie Elena, anche lei rimasta ferita. Si erano sposati il 30 maggio scorso e poi erano partiti per gli Stati Uniti. A bordo dell'autobus c'erano in tutto 14 passeggeri italiani più la guida e l'autista. Quest'ultimo, un italo-americano di 54 anni, è la terza vittima. E da quanto si apprende da Alpitour, che ha organizzato il viaggio attraverso la controllata via Gidea, tra i feriti 4 sono ancora ricoverati in 2 diversi ospedali americani, mentre 8 sono stati già curati e dimessi. Via Gidea, col gruppo Alpitour, ha costituito un'unità di crisi a Milano ed è in continuo contatto con il team di assistenza a New York. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Traffico.